get into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Eccoci qua, finalmente, finalmente, dopo tanta attesa, tanti promo, è arrivato il momento di aprire le porte del salotto di Into the Groove, la nuova trasmissione di Radio 23. Accomodatevi pure, io sono Riccardo, vi do il benvenuto in questo nostro salotto auditorium, dove nel corso della prossima ora potrete ascoltare, insomma, un po' di buona musica e provare anche a capire un po' di più di quello che è il meraviglioso mondo della batteria, diciamo, e più in generale del ritmo nella musica rock. Prendete pure posizione sui divanetti e sulle poltroncine, lì a sinistra della batteria c'è il frigo bar, servitevi liberamente, tanto paga tutta la radio, quindi siete coperti, e mettetevi comodi perché iniziamo un grande viaggio. Beh, che cosa faremo qua a Into the Groove? Beh, proveremo ad ascoltare, anzi diciamo a riascoltare alcuni pezzi famosi, molto famosi, cercando di mettere al centro della nostra attenzione il lavoro che fa il musicista che sta dietro ai tamburi, cioè com'è che si costruisce un ritmo e che cosa è che dà il groove ad una canzone. Ma che cos'è il groove? Perché questa canzone, perché questo programma l'abbiamo chiamato Into the Groove? Il groove, ecco, che cos'è? È un'ottima domanda questa, che pur essendo apparentemente molto semplice, diciamo che prevede una risposta piuttosto articolata. Ed è una risposta che tenteremo di dare nel corso di questa e anche delle prossime puntate di Into the Groove. Ma già per spirito di sintesi possiamo iniziare dicendo che il groove è quella cosa che diciamo ci fa muovere la testa, ecco, quando si ascolta una canzone. Che sia lead banging nel metal o che nel movimento a piccione nelle ballate tipo in stile Barry White, ma insomma il groove è quello che in italiano si sarebbe chiamato in un modo un po' antico il tiro di una canzone, ma insomma è quella cosa lì che ci fa appunto, non ci fa star fermi, ci fa dire che questa canzone ci prende bene. Ecco, come nasce il groove? Beh, il groove nasce fondamentalmente dal ritmo, appunto. E noi proveremo a scavare un pochettino dietro la patina di una canzone per andare ad analizzarla un pochino meglio. Vi prometto che non vuole essere una trasmissione accademica, quindi non saremo specifici, non saremo troppo tecnici, non vuole essere neanche esaustiva, quindi non faremo tutta la storia del rock, non faremo la storia delle band e non faremo le biografie, per quanto interessanti, dei batteristi. Quello che vogliamo fare è parlare della batteria e del batterismo in generale, prendendo ad esempio alcuni fra i batteristi più famosi o i batteristi dei gruppi più famosi, insomma, che hanno suonato e realizzato i brani che sono considerati o che possiamo considerare come degli esempi, come dei modelli ai quali altri poi si sono ispirati, si sono riferiti, quelli che si potremmo chiamare i caposcuola, diciamo, no? Quindi senza stare troppo a scavare sotto, ad andare a ricercare i tecnicismi, parleremo semplicemente così un po' a volo d'uccello, naturalmente della musica rock, ma naturalmente anche delle sue costole, diciamo, di tutte le sue affiliazioni, di tutte le sue derivazioni, quindi il punk rock, quindi il funky, quindi l'R&B, quindi parleremo anche naturalmente del metal, parleremo del progressive, parleremo un po' in generale dei vari generi o appunto dei batteristi che hanno attraversato più generi. Ma insomma, non voglio stare ancora troppo a lungo a fare le premesse, vi voglio presentare subito il primo protagonista della serata. Lo facciamo, ho qua il suo biglietto da visita, ve lo faccio leggere e poi mi dite se l'avete riconosciuto. Pronti? Eccolo qua, guardate. Naturalmente l'avete riconosciuto. Allora, il primo batterista di cui parliamo è Tommy Ramone e naturalmente avrete anche già capito che vogliamo parlare della musica punk. Il punk è ovviamente il punk è una brutta bestia. Il punk è una brutta bestia perché perché spesso viene considerato erroneamente da buona parte delle persone una musica facile, una musica semplice da eseguire, una musica che non serve, non richiede grande preparazione tecnica, quando invece questa cosa non è assolutamente vera. Ovvio che è una musica, lo metto fra virgolette, facile, perché soprattutto tipo il punk dei Ramones, che poi sono i caposcuola, no? È costruita su pochi accordi di chitarra, su un ritmo molto, molto regolare, molto dritto, e quindi in teoria è una musica che è semplice da approcciare, e anche per lo spirito, il messaggio che porta, richiede, come dire, un'attitudine più all'esibizione che alla precisione dell'esibizione stessa. Adesso mi sto un po' incartando, ma insomma spero di essere stato abbastanza comprensibile. Allora, noi vogliamo parlare di Tommy Ramone, che è il papà di tutti i batteristi punk. Dico questa cosa e se mi sentisse Tommy Ramone probabilmente scenderebbe dalla nuvoletta e mi prenderebbe a testate, dargli del papà forse non gli sarebbe piaciuto, ma insomma diciamo che è diventato da subito il punto di riferimento per tutti quelli che hanno suonato il punk. Allora, il suo modo di suonare, e lo sentiremo subito con Blitzkrieg Pop, che è il pezzo più famoso ed è quello che diciamo ha portato alla ribalta mondiale da subito i Ramones, definendoli come un punto di riferimento, è una canzone nella quale la batteria è un treno, praticamente è una batteria messa lì su un binario, e Tommy Ramone aveva la qualità di essere molto veloce per poter stare dietro alla velocità dei brani dei Ramones. Il suo modo di suonare lo possiamo definire lineare, nel senso che cassa e rullante è il tamburo insomma centrale della batteria, eseguono proprio la classica figura del punk, che è tum-cia, tum-cia, tum-cia, tum-cia, e la grande velocità la ha con la mano destra, che suona il charleston in questo ritmo molto molto dritto, molto preciso, molto pulito. Tommy Ramone usa pochissimo i piatti, adesso lo ascolterete, provate a farci caso, usa i piatti solo alla fine della frase, solo per, come dire, sottolineare alcuni momenti di accento, e in generale insomma lo è diciamo molto parco, molto parsimonioso nell'utilizzo dei piatti. Allora adesso provate a buttarci un po' l'orecchietta e concentratevi su quello che Tommy Ramone fa con la batteria, e poi dopo andiamo ad analizzarlo un po' meglio. Sentite già da adesso però come fa questo, no? Con il charleston. La stessa cosa la farà dopo, ma ve lo racconto dopo. Pronti? Ehi! La mano destra di Tommy Ramone non si ferma mai, anche quando fa il pezzo appunto Hey, ho, Let's Go, che lui sposta la mano dal charleston al timpano, che è il tamburone che c'è sulla destra, continua a fare la stessa cosa martellante, tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Praticamente è un treno, davvero un treno su un binario che non si ferma mai. Nella musica dei Ramones la batteria è uno strumento di sostegno, realmente di sostegno, è, diciamo, come dire, sono le fondamenta sulle quali è costruito il palazzo della canzone, mettiamola così. È davvero un supporto, un sostegno al brano. Lo sentiamo ancora meglio nel prossimo brano, che a me piace da morire. E ancora una volta provate ad ascoltare lui, quello che fa sia quando suona i tamburi che quando suona sul charleston, tiene sempre lo stesso ostinato, si dice ostinato, un ritmo che non cambia mai, la parola stessa lo dice, e naturalmente provate a fare caso a una cosa, lui non cambia mai l'accentatura di quello che suona, cioè tutti i colpi sono praticamente identici. Se non lo sono, non è per volontà, ma perché magari sei un po' incartato, secondo me. Ma insomma, il suo stile è molto molto lineare, molto molto pulito, e diciamo che è quello che poi è stato un punto di riferimento, e da lì si è iniziato a muovere il punk. Allora proviamo ad ascoltarci il prossimo brano, che si chiama Teenage Lobotomy. Sentitevi l'introduzione che fa Tommy Ramone e ditemi se non ho ragione io. Allora immaginiamoci a questo punto di prendere un aereo e attraversare l'oceano. Lasciamo per un momento Tommy Ramone e i suoi ritmi dritti, sparati, e ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Inghilterra. L'Inghilterra nel 77 è l'incubatore del punk, naturalmente ci sono fior di gruppi e dovremo parlare di moltissimi di questi, perché ognuno di loro è stato a suo modo influente. Io ho scelto di parlare di uno dei miei gruppi preferiti, che sono i Clash, ma lo faccio non tanto perché i Clash sono fra i miei preferiti, appunto, ma perché il batterista più famoso dei Clash, Topper Eden, è uno di quelli che ci farà sicuramente da ottimo esempio per il discorso che vogliamo fare in questo momento. Allora, Topper Eden non è il primo batterista dei Clash, arriva dopo un po' che i Clash stanno già suonando e stanno cercando un batterista che possa in qualche modo arricchire la loro vena artistica. Topper è un musicista completo, mentre nel caso di Tommy Ramone possiamo parlare sicuramente di un bravissimo, talentuosissimo, ma dilettante, diciamo. Topper Eden è un batterista con una formazione precisa, è uno che ha studiato tanto e si sente. Il suo apporto alla musica dei Clash è innanzitutto anche compositivo, perché lui firma alcune canzoni e non si limita soltanto ad accompagnarle o a suonare quello che gli viene chiesto di fare, quindi partecipa attivamente alla costruzione del brano, e nel suo modo di suonare cominciamo a percepire come la batteria diventi uno strumento non più di sostegno, ma funzionale, strutturale alla costruzione del brano. Mi spiego meglio. Appunto, come ho detto prima, con i Ramones la musica che suona Tommy è le fondamenta sulle quali viene costruito la canzone. Nella musica di Topper Eden la batteria è la canzone. Gli obbligati, gli stacchi, gli incisi che lui mette dentro la canzone sono creativi, altamente creativi. Non è soltanto ritmo, ma è un ritmo molto musicale. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare dei Clash però è mirato a far capire come può essere il differente approccio a un pezzo della batteria che è appunto il Charleston. Prima abbiamo sentito su il modo di suonare di Tommy Ramone un Charlie molto molto dritto, questo che invece ascoltiamo adesso nel disco. Il disco è London Calling, capolavoro assoluto degli anni 80. Ascoltiamo Lost in the Supermarket, dove possiamo facilmente apprezzare un differente stile, un differente modo di affrontare, diciamo, appunto questo pezzo della batteria con un ricamo ritmico completamente differente. Ve lo faccio sentire subito e poi ne parliamo. Sentite un po'. Senti già come cambia. Non è più dritto, ma è... E poi, nel corso della canzone, questa figura ritmica Topper Eden la cambierà, perché quando inizia la strofa la porta in levare con un movimento che somiglia quasi allo ska. Prova a sentire adesso, che cambia, via. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight or scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs. I save coupons with packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls. Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. I'm all lost in the supermarket. Shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost. Qua. Allora, questo era per farvi capire un po' meglio come si possa lavorare diversamente sul Charleston, insomma costruire un ritmo con dei veramente ricami ritmici. Ora, mentre stavamo ascoltando la canzone, dalla regia mi è stato fatto giustamente notare come io stia parlando di un elemento della batteria, il Charleston, appunto, che non è magari per tutti una cosa molto familiare. Allora è giusto spenderci magari un paio di parole per spiegare che cosa è questo elemento fondamentale nella batteria. Dunque, il Charleston è quel doppio piatto che si trova alla sinistra del batterista e che... Grazie regia. Benvenuti a Super Quark Batterismo. Oggi parleremo del Charleston. Questa cosa mi sembra veramente idiota, ma è divertente. Allora, abbiamo detto il Charleston. In realtà Charleston si chiama solo in Italia, credo, perché in tutto il resto del mondo si chiama hi-hat. Ed è appunto quel doppio piatto sovrapposto uno sopra l'altro che si trova alla sinistra del batterista nel caso di un batterista destro, o alla sua destra nel caso di un batterista mancino. Poi ci sono alcune eccezioni, ma non stiamo qua a fare lana caprina. Si suona quasi sempre con la bacchetta, perché quello si fa, o a volte si suona anche soltanto con il piede, perché è montato su un'asta a molla e con il piede lo si apre e lo si chiude. La combinazione di bacchetta e piede creano una varietà enorme di suoni. Suonato solo con la bacchetta si ha il colpo stick, o se lo si lascia semiaperto si ha quel suono wash un po' più aperto, che si usa molto molto molto nel rock, ma l'abbiamo sentito anche prima in qualche pezzo di Tommy Ramone, o adesso sul finale di Lost in the Supermarket. Se lo si suona solo con il piede si produce il chick classico della chiusura, o se si è molto bravi si riesce a farne sfiorare soltanto i bordi e si riproduce il suono che usano, diciamo, i piattisti nelle bande, ad esempio, no? Nei piatti da parata, o il piattista delle orchestre sinfoniche. Ecco, quello lì si chiama Charleston ed è un pezzo essenziale nella batteria. Grazie regia per la sigla di Super Quark. Torniamo invece al nostro... Grazie, abbiamo detto di toglierla, grazie. Torniamo al nostro modus operandi. Allora, tornando a noi... Dove eravamo rimasti? Ah, eravamo rimasti a Topperidon. Abbiamo sentito un lavoro molto prezioso sul Charleston. Vorrei farvi sentire, se voi siete d'accordo, uno dei maestri del Charleston. L'ascoltiamo dopo. Chiudiamo un attimo con Topper, perché come ho detto prima, il suo modo di suonare è anche strutturale e funzionale alla canzone. È naturalmente un batterista con una grande tecnica, e lo ascoltiamo in questo brano qua, dove lo sentiamo suonare molto molto bene il rullante, con appunto delle rullate introduttive galoppanti, e dove la batteria suona esattamente quello che suonano la chitarra e il basso. Cioè ogni colpo di cassa o di rullante fanno da contrappunto a una pennata di chitarra o a una nota di basso. È una canzone davvero bella, si intitola Hateful, è una delle mie preferite dei Clash, ve la faccio sentire subito. Provate a concentrarvi appunto su questo stile, questo modo di suonare appunto nota su nota, batteria e altri strumenti. Quindi non c'è più ancora una volta la batteria come gabbia, come struttura, ma è esattamente uno strumento armonico e melodico tanto quanto gli altri. Hateful. I need it all so badly. E vabbè, che cosa gli dobbiamo dire? Quando uno suona così bisogna stare solo zitti e mosca. Oh, naturalmente il punk dei Clash ha fatto storcere un po' il naso a molte persone, perché è un punk incrociato, diciamo, fecondato da tanti altri generi musicali, da tanti altri stili, e infatti la loro vena compositiva per questo aveva bisogno di un batterista molto versatile come è Topper Hedon. Allora, prima ho fatto un salto perché mi è venuto in mente una cosa parlando di maestri del Charleston, perché ce n'è uno che è straordinario, è insuperabile, resta insuperabile, maestro per tutti, è Stewart Copeland, il batterista dei Police. Non lo avevo contemplato nella puntata del punk, perché se i Clash vengono un pochino visti storcendo il naso quando si parla di punk, i Police sicuramente non li si può definire punk, per quanto la loro carriera sia iniziata con loro stessi che si definivano punk. Ma il loro modo di suonare è talmente unico, e talmente unico è il modo di suonare di Stewart Copeland, che si fa fatica a rapportarla a un genere, no? Però insomma c'è una canzone, ed ecco perché vi ho rimandato, la volevo trovare, c'è una canzone che è esattamente e perfettamente punk nella produzione dei Police. Provate ad ascoltare questo grandissimo maestro, quello che fa sul Charleston, ma quello che poi fa sui tamburi. A lui, ve lo anticipo già, dedicheremo una puntata speciale, o comunque molto molto più spazio, perché è un batterista essenziale, fondamentale nella storia della musica. Ascoltiamoci Police con Next to You e sentite che cosa sa fare Stewart Copeland. Senti solo l'intro. Questo qua è il punk inglese, insomma, l'abbiamo. Ditemi voi se non è punk questa, che cosa possiamo definire come punk? Insomma, una canzone pazzesca dove l'energia che sprigiona questo power trio è spaventosa, impressionante. Insomma, poi io ho un'ammirazione smisurata nei confronti di Stewart Copeland, forse si è capito da come ne parlo, me ne rendo conto da solo. Allora, torniamo a noi. Ho detto, il punk inglese l'avete sentito, forse l'avete percepito, ha una struttura musicale molto più complicata rispetto a quello americano dei Ramones, nel senso che quello dei Ramones è molto semplice, anche proprio armonicamente. Quello inglese, sia dei Clash che questo dei Police, è molto più strutturato, lo è molto più strutturato quello ad esempio dei Sex Pistols, per dirne un'altra, insomma, no? Sono canzoni più musicalmente complesse, diciamo così, è un po' la cifra stilistica del punk inglese. Ma noi torniamo ancora una volta al di là dell'oceano e riandiamo negli Stati Uniti. Per parlare di che cosa? Beh, per parlare della forma più brutale del punk, no? del hardcore. E c'è un batterista che è fantastico, si chiama Bill Stevenson, e lui ha reso celebri due gruppi fondamentali. Il primo è Descendants e il secondo sono i Black Flag. Credo che nessuno dei due abbia bisogno di una grande presentazione. Cominciamo a parlare di Bill Stevenson. Che cosa ha di particolare? Beh, innanzitutto un approccio molto muscolare alla batteria. Finora abbiamo sentito la linearità di Tommy Ramone, la raffinatezza compositiva di Top Peridon. Adesso ascoltiamo un rullo compressore dietro i tamburi che si chiama Bill Stevenson. Lui ha un approccio, come ho detto, molto muscolare e molto veloce sui tamburi. Ha inventato queste rullate che sono in realtà, come dire, delle mitragliate sul tamburo, no? Sul rullante, lo sentirete, è velocissimo e potentissimo e ha un modo di portare il tempo che è davvero muscolare. L'unico aggettivo che mi viene in mente è muscolare. Chiaramente è un modo di suonare la batteria che è assolutamente funzionale a questo genere, perché ha bisogno di energia, ha bisogno anche di rabbia, no? E la esprime fisicamente e con l'intenzione che si dà alle note, perché ha un modo di colpire sia i piatti che i tamburi molto molto forte. È uno che, come nel caso di Tommy Ramone, non usa tanti piatti, anzi li usa quasi per niente, usa tantissimo il Charleston ovviamente, ma la sua grande particolarità sono queste rullate molto veloci, molto intense, molto prolungate proprio sul rullante. Allora, senza por troppo tempo in mezzo, ascoltiamoci un pezzo dei Descendants, si intitola My Age, e provate a sentire che diavolo fa questo demonio dietro i tamburi. My Age inizia così, basso distorto, ed eccolo qua. Potenza allo stato puro, no? Potenza allo stato puro. Questo è, avete sentito questa velocità spaventosa sul rullante. Questi sono, si chiama un rullo singolo in realtà in gergo tecnico, ed è molto facile da spiegare. Voi provate a farlo se avete voglia. Prendetevi, se avete due matite, due penne o due bacchettine da sushi. Se non avete niente potete farlo anche usando semplicemente le mani. Un colpo con la destra, un colpo con la sinistra. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, andando sempre più veloce, progressivamente aumentando, e vedete fino a che velocità riuscite ad arrivare. Insomma, poi provate a immaginare la velocità che ha raggiunto lui su quel tamburo e per quanto tempo riesce a tenere questa rullata con una fluidità disarmante. Quello che poi è impressionante non è soltanto la velocità, ma, e adesso lo sentiremo nel prossimo pezzo che è bellissimo, è anche la capacità di arricchire questa sua mitragliata con una serie di accentature. Quindi non è tutto semplicemente trrrr, come potrebbe essere appunto una mitragliatrice, ma riesce a collocare degli accenti per muovere un po' questa sua rullata, così si chiama, l'avrò detto 60 volte, ma questo è, e quindi la muove nella sua durata, ma poi riesce anche a inserire alcune pause, quindi è una, anche in questo caso si chiama sincope, ma sto facendo forse troppa tecnica. Insomma, riesce a metterci dentro alcune pause, alcuni break che muovono il tutto rendendolo mai banale, mai scontato, ma sempre tenendo una tensione musicale e muscolare molto molto potente. Il brano che vi faccio ascoltare adesso è un brano dei Black Flag. Black Flag non ne voglio parlare perché sono la band di riferimento assoluta per tutta la scena hardcore mondiale. Se non conoscete Black Flag non vi voglio neanche parlare, quindi non pongo altro tempo in mezzo perché abbiamo ancora da dire tante cose. Ascoltatevi quello che fa Bill Stevenson in questo brano qua e vedete come riesce appunto a spezzare questa catena di colpi enorme senza perdersi, senza rallentare, e con che grazia nonostante la forza che ci mette dentro. Il brano inizia come prima con un bel giro di basso distorto, quindi si somiglia, ma poi parte lui. Fa paura a vederlo, ragazzi, cercatevi qualche video. The Bars. Girl I knew, she saw the prison inside. She cursed her keeper and swore she'd get free. Every time I see, I've got my hands wrapped around the bar. I want out right now. She made an angel's flight on angel wings, jumped out her apartment window and hit the stoop below. Every time I see, got my head wrapped around the bar. I can't shut off my mind. And now I'm waiting. My hands are wrapped around the bars. I'm burning. My soul is pushed against the bars. The bars. The lie. The lie. The lie. The lie. Lie. The jail behind my eyes. Oh. Hates my body, my body hates my soul. I close my eyes and fight inside my own black hole. Every time I see, I got my hands wrapped around the bar. I want out right now. I live my life, I'm doing my time. I realize life's life. Every time I see, wrapped around the bar. I can't shut off my mind. And now I'm waiting. My hands are wrapped around the bars. I'm burning. My soul is pushed against the bars. The bars. The lie. The lie. The lie. Lie. The lie. The prison behind my eyes. Questo era Bill Stevenson, l'abbiamo sentito, un pezzo da 90, batterista fondamentale, e con lui abbiamo chiuso, diciamo, questo ipotetico tris di grandi maestri. Che cosa abbiamo ascoltato? Il drumming lineare e pulito di Tommy Ramone, abbiamo ascoltato l'eleganza e la raffinatezza compositiva anche di Top Eridon, e abbiamo ascoltato la potenza e la muscolarità di Bill Stevenson, che tra l'altro, ripeto, è fonte di ispirazione per praticamente tutti i batteristi che suonano l'hardcore. E poi è questo il nostro scopo, quello che vogliamo provare ad ascoltare, a imparare qua ad Into the Groove, è non tanto di parlare del batterista più bravo, perché poi non ha molto senso parlare di un musicista più bravo degli altri, non è che è un centometrista che arriva primo e vince, no? Ma piuttosto di prendere in considerazione quei batteristi che sono un punto di riferimento, un modello, un'ispirazione per tutti gli altri artisti della scena musicale. Naturalmente questa cosa qua non doveva accadere, ma l'avete sentita, fa niente. Di che cosa stiamo parlando adesso? Beh, dell'ultimo aspetto del punk, l'ultimo abito che puoi indossare, cioè quello più commerciale, quello più pop. E di chi parliamo? Di Travis Barker, che è il batterista dei Blink 182, o come dicono gli americani, 182. Allora, Travis Barker, lo dico subito così mi levo il dente, è un batterista che a me non piace particolarmente, ma prima che veniate a cercarmi qua sotto la radio, dico subito che è un batterista straordinario, strepitoso e assolutamente degno di tutto il massimo rispetto e la massima considerazione. Perché? Beh, perché è un batterista preparatissimo, è uno che sullo strumento ha studiato tanto e si sente, ma qual è il suo limite secondo me? Che proprio perché è uno bravo lo sa e te lo vuole dimostrare, quindi nelle canzoni dei Blink la batteria è predominante, è possente, è sempre in primo piano. E Travis suona come se volesse farti capire che lui è più bravo di te. A me questa cosa dà un po' fastidio, anche perché effettivamente è più bravo di me, ma questo non è il nocciolo della questione. Allora, perché parlo di Travis, anche se non mi piace? Perché per l'appunto è un batterista assolutamente di riferimento per tutti quelli che suonano questo genere qua, il punk più californiano, quello più commerciale, più pop per l'appunto. Personalmente preferisco il batterista dei Green Day, ma perché lo trovo più creativo, più funzionale alla canzone, ma comunque Travis va rispettato assolutamente, anche perché Rolling Stones, che fa le sue grandi classifiche, l'ha inserito comunque fra i primi 100 batteristi più importanti della storia. Perciò chi sono io per dare contro Rolling Stones? Benissimo. Parliamo proprio di Travis, che comunque ha tutti i suoi bravissimi ed eccellentissimi meriti, lo ridico. Primo fra tutti quale? Beh, quello di aver portato all'interno del punk il fraseggio sui piatti. Oggi sembra la puntata dei piatti, per l'appunto abbiamo parlato del Charleston, adesso parliamo anche degli altri piatti del set. Praticamente che cosa succede? Che Travis insieme ai tamburi riesce a ricamare questi suoi stacchi, queste sue vere e proprie melodie sono costruite passando da un piatto all'altro, usando la campana, usando il china, che sono quei piatti larghi che fanno un suono molto trescioso, lo riconoscerete. E assieme a questo incastrarci appunto dei passaggi molto molto veloci, molto molto puliti e soprattutto a modo suo creando una melodia percussiva dentro la canzone. Adesso noi proviamo ad ascoltare il primo pezzo, che forse è anche quello più famoso poi dei Blink, che è Adam Song. Adam Song è una canzone del 1999, quindi ha i suoi annetti. E Travis Barker si presenta in questo modo. Diciamo che se ti mette lì questo biglietto da visita, ti dice: guarda, io sono arrivato sulla scena mondiale e so fare questo, adesso tu prova a fare meglio di me. E ripeto, la cosa che a me non ha tanto convinto di questo batterista, che preferisco sotto altri generi, quando lui ha dei progetti laterali lo preferisco nettamente. Ma insomma, sentiamoci Adam Song, concentriamoci subito soprattutto sull'introduzione della canzone. Parte con un arpeggio di chitarra e poi entra subito lui con i tamburi e i piatti. Provate a concentrarvi un attimo. Questo è l'arpeggio di chitarra, adesso inizierà cassa rullante e poi fa i suoi giochi sui piatti. Was mine, I didn't think enough. I'm too depressed. Allora, io l'ho riascoltata con attenzione insieme a voi questa canzone e quasi quasi mi sto ricredendo. Quasi quasi mi sto ricredendo, perché effettivamente il nostro amico Travis Barker usa anche gli splash. Ne usa lo splash è un piatto molto piccolino che si usa per dare degli accenti. Ci sono dei grandissimi batteristi maestri nell'uso dello splash, lo sentiremo naturalmente nelle prossime puntate. È uno dei miei piatti preferiti, e sentirlo nella musica punk effettivamente bisogna riconoscergli che qualche merito importante ce l'ha. Poi soprattutto se vi ricordate, se no ve la riascoltate la canzone, adesso io non ve la rimetto da capo, ve lo dico. Subito dopo il secondo ritornello c'è un pezzo che Travis suona direttamente sul rullante ed è, sembra una marcetta militare. Quelli sono esattamente i rudimenti che si studiano per imparare a usare il rullante. Lui li fa molto bene, molto fluidi, li ha inseriti in un pezzo punk, quindi ancora una volta bisogna dargli atto che sta provando a sperimentare. Come ho detto prima, per esempio io lo apprezzo molto di più nei progetti paralleli, ad esempio con i Transplant lui ha fatto dei pezzi notevoli, perché come dire, suona più per la band che per se stesso. Però sempre coi Blink ha fatto grandissime cose, ad esempio è uno che ha provato a ibridare molto i ritmi. Travis è uno che ha avvicinato, come dire, ci sono alcuni pezzi, adesso mi sto incartando, ma ci sono alcuni pezzi dei Blink nella loro produzione in cui Travis suona dei ritmi quasi hip hop, e sicuramente alcuni suoi suoni sono stati poi campionati da alcune band hip hop. Insomma, è uno che ci prova, che sperimenta, che butta dentro il drumming nel punk alcune forme di batterismo. Io voglio dirlo all'italiano, non drumming ma batterismo, alcune forme di batterismo prese in prestito da altri generi, rilette e reinserite all'interno del punk. E questo è, bisogna dirlo ancora una volta, un grandissimo merito. E poi inoltre che altro dirvi, che però a me cos'è che ancora una volta non aveva convinto tanto. Prendiamo l'ultimo disco, quindi cos'era, Adam Song del 99, l'ultimo disco dei Blink è uscito quest'anno, quindi 17 anni se non ho sbagliato i conti, e che cosa fa? Fa una canzone dove l'introduzione è, per me, molto molto simile a quella di Adam Song. Il pezzo mi fa anche sorridere perché si intitola No Future, e No Future è lo slogan del punk del 1977, e visto che i Blink sono stati spesso, anche oggi, accusati di non essere punk o non essere abbastanza punk, intitolare una canzone No Future a me fa abbastanza sorridere, perché la trovo, come dire, una forma di piccola provocazione nei confronti del proprio pubblico. Comunque sia, anzi non del proprio pubblico, dell'altro pubblico che non li apprezza, perché comunque i Blink hanno un numero di fan spropositato nel mondo, anche in Italia, insomma. Cosa dire? Allora niente, chiudiamo con questa ultima canzone, chiudiamo con No Future. Prima di concludere e prima di salutarvi, voglio anticiparvi che cosa succederà nella prossima puntata. La prossima puntata parleremo di monumenti. Parleremo di monumenti, ne ho scelti tre che sono veramente tre, non so, tre mostri sacri della batteria. Non vi anticipo i nomi, se siete un po' batteristi saprete già di chi sto parlando. Chi sono i tre mostri sacri del rock? Facilissimo. Se non siete batteristi, seguiteci sulla pagina Facebook, dove lancerò alcuni indizi nel corso della settimana, così che possiate andare piano piano a scavare, a ravanare e scoprire alla fine la soluzione del piccolo enigma divertente che ho provato a mettervi giù. Allora, torniamo a noi, concludiamo la puntata. Io vi ringrazio per aver portato la pazienza di ascoltarmi per questa ora. Spero di essermi spiegato abbastanza. Dubito di averlo fatto bene perché non sono un didatta, ma insomma ce l'ho messa tutta. Nei prossimi giorni scrivetemi pure sulla pagina Facebook se avete dubbi o se avete contestazioni da fare. Sarò felicissimo di rispondere e di ascoltare tutti i vostri suggerimenti. Torniamo a concentrarci sui Blink 182, su Travis Barker che ci saluta con questa ultima sua fatica. Ascoltate l'introduzione e ditemi se questa non somiglia a Adam Song, e vi lascio con questo piccolo dilemma. Scherzetto, questa è Adam Song, questa qua ve la voglio far risentire perché se no non si riesce a capire. Certo non è ugualissima, però no, un pochino la richiama. Ciao. She said, tonight's a waste of time. The next day, the sun will always rise. Every day that you waste, every promise you break, slips beneath the floor. It's a permanent state from a moment's mistake. But life's worth so much more.